Allora, come abbiamo annunciato poc'anzi, usciamo un attimo dalla tematica della TAV e dell'occupazione di Boccea e ci troviamo invece a un brivido sulla schiena a parlare di bilancio del comune, giusto? Cosa che non è comunque non sono proprio assolutamente slegate da tutto ciò che stiamo mettendo in mezzo questa mattina. Allora, intanto dici dove sei, perché, raccontaci. Allora, sono davanti a Cea, quindi a Piazzale Ostiense, dove è appena finito il presidio del coordinamento romano acqua pubblica per la terza consegna dei reclami all'interno della campagna di obbedienza civile, campagna con un nome un po' strano ma che ormai avrete imparato a conoscere, e sostanzialmente che sia rispettato il voto dei 27 milioni di cittadini che hanno votato per la ripubblicizzazione del servizio idrico e anche per il fatto che venisse eliminato dalla bolletta il famoso 7% di remunerazione del capitale investito, quindi sostanzialmente che vengano eliminati dalla bolletta i profitti su quello che tutti noi consideriamo un bene comune, e quindi appunto non è possibile che ci sia qualcuno che si faccia profitto sopra. E ovviamente, come al solito in Italia, il referendum è stato fatto ma non è stato ancora applicato, per cui ci troviamo a dover ancora combattere, essere ancora in movimento per l'acqua pubblica, e lo siamo ancora di più in un momento in cui il signor Aledanno non pensa bene che, appunto, dimenticarsi che i cittadini romani, anche 1.200.000 cittadini romani, hanno votato al referendum dicendo che appunto volevano tutto questo, e quindi lui pensa bene di voler far reggere il suo bilancio allucinante e vergognoso sulla vendita di un ulteriore 21% di quote pubbliche di Acea Ato 2, il che appunto è quantomeno allucinante. Per cui siamo all'interno questa iniziativa di oggi, la consegna di altri 300 reclami, quindi insomma siamo arrivati a un migliaio di reclami, che vuol dire 20.000 cittadini, 20.000 famiglie romane raggiunte da questa campagna, che quindi hanno deciso di reclamare contro Acea, quindi di firmare contro Acea questo reclamo, intimandola del fatto che appunto se la prossima bolletta non verrà ridotta di questo famoso 7%, che in realtà a Roma arriva anche a un 17% di ogni bolletta che si arriva, decideranno appunto autonomamente di autoridursi le bollette. Quindi insomma la campagna ha sicuramente un significato e una valenza molto importante e anche molto concreta, cioè non è solamente una campagna di agitazione pubblica, di comunicazione, ma insomma appunto andrà a infisare direttamente i profitti di Acea da questo punto di vista. Dopodiché è inserita ovviamente nella campagna più ampia contro l'approvazione di questo bilancio 2012, per cui è all'interno di quel anche coordinamento più ampio di realtà che si stanno mobilitando in tutta Roma contro l'approvazione di questo bilancio, e che ci vedrà in una grande assemblea sabato prossimo, il 14 di aprile, prima di andare tutti insieme, tutte e tutti insomma, ad Albano alla manifestazione contro l'inceneritore. Ovviamente ci sarà questa grande assemblea in cui insomma tante realtà che sono attive sulla città di Roma prenderanno la parola contro questo bilancio e contro la vendita dell'acqua pubblica, contro la vendita di Acea. E ancora di più insomma l'invito è quello invece a prepararsi per la grande mobilitazione invece del 5 maggio, in cui faremo una manifestazione pubblica contro il comune di Roma, contro la giunta Alemanno, perché per impedire appunto questa vergogna della vendita del 21% di Acea. Sì, insomma, voglio dire, sono cose a cui tutte e tutti, direttamente o indirettamente, insomma, siamo toccate, quindi insomma, diciamo, questi sono appuntamenti molto importanti a cui partecipare, così come... Un altro invito, scusami, che volevo fare, appunto, proprio perché ognuno poi può avere il suo modo di attivarsi su questa, rispetto a questa campagna. Ovviamente qualcuno penserà, vabbè, ma io sono andata pure a votare stavolta, sono andato al referendum, ho fatto quello che potevo fare, ancora una volta mi hanno preso per il culo. Il problema è che appunto bisogna continuare a mobilitarsi, perché ovviamente insomma non può arrivare neanche l'ultimo cretino come Alemanno e fregarsene di una roba così importante come la richiesta fatta sulla ripubblicizzazione del servizio idrico integrato. Per questo abbiamo deciso di bombardarlo e di rompergli le palle per quanto potremo, e per questo ho fatto anche un sito che è semplicissimo, www.dilladalemanno.it, e semplicemente andando su questo sito e registrandosi, giuro che ci vogliono 30 secondi, io sono una pigra, quindi giuro che ci vuole un attimo, registrandosi viene inviata in automatico una mail, quindi è una sorta di mail bombing, ad Alemanno direttamente e agli assessori competenti, quindi ognuno anche dal computer di casa, del lavoro, insomma ovunque si trovi, può rompere le palle ad Alemanno e può di nuovo testimoniare la propria presa di parola, la propria partecipazione a questa campagna. Tanto ormai mi sembra che insomma, il computer, diciamo, per quanto sono informatizzate le istituzioni, mi sembra fighissimo, perché sicuramente andranno nel panico. Per quanto invece noi ormai siamo informatico dipendenti, se fate i biglietti low cost riuscite pure a registrarvi su un sito così. Sì, ci vogliono veramente 30 secondi e io sono ho una super pigra. Quindi insomma, questo è un altro pezzettino di questa campagna che sta veramente coinvolgendo tante realtà e speriamo ne coinvolga altre, che ci porterà appunto a questa mobilitazione per il 5 maggio, di cui parleremo anche più avanti, e che soprattutto appunto anche con il passaparola, insomma, ne avremo modo di parlare, deve veramente raggiungere tutti i cittadini, perché questa è veramente l'ennesima presa per il culo, l'ennesimo oltraggio alla realtà, alla voglia di partecipazione e la presa di parola che i cittadini hanno fatto il 12 e 13 giugno, ma hanno fatto anche anni fa, quando si decise di gestire ASEA in un determinato modo, quindi ci fu un referendum, i cittadini si pronunciarono per dire che il 51 doveva rimanere pubblico, ebbene Alemanno se ne frega, e quindi dobbiamo assolutamente insomma prenderci, insomma, difendere ciò che è nostro, che va sicuramente migliorato, che appunto quando si parla di ripubblicizzazione non è una parola vuota, ma significa partecipazione dal basso, reale e concreta in tutti quelli che sono i servizi pubblici locali, ma per questo appunto dobbiamo attivarci tutte e tutti. Va bene, allora grazie tantissimo, e quindi avremo modo di risentirsi sicuramente, visto anche queste tante iniziative a venire. Grazie ancora, va bene, in bocca al lupo. Grazie a voi, ciao, a presto, ciao.